Un rumore che lei sente, col barista sentirà macchinette del caffè, sì. Un po'... Tazzine, soprattutto, tazzine. Bicchieri, la lavastoviglie che va, il flipper di sotto, di sopra ci sono le freccette. E lei da quanto fa, diciamo, il mestiere da barista? 31 anni. E la cosa del magari ogni giorno la ripetizione, l'ha mai stancata o la stanca? No, perché ogni giorno arrivano persone... Gentili. No, diverse, nuove. Non si annoia mai, diciamo. Diciamo che la maggior parte dei clienti sono amici. E quindi si ride, si scherza. Qualche volta c'è qualcuno un po' sopra le righe, ma dai. Per tornare alla domanda che stava facendo Joel. È sempre stato qui a... Sì, sempre qua. Quando era piccolo. Aspetta, fermi. Noi saliamo di domande. Ho 51 anni, quindi da quando ho 19 anni. Da quando ha 19 anni. E a proposito di carattere delle persone, Giovanni sta facendo la domanda. Secondo lei, visto che conosce tante persone, c'è un carattere tipico qua di Lizzana? No. Può dirci qualcosa?